sì. Thank you.

quella, tu mi avevi dato come segnale, Cla, 9 e 18, e quella volta va 9 e 21, con quattro parti di baracchino. Quella lì è buona l'antenna. È buona l'antenna, non c'è problema, sono buone tutte e tre, però quella che abbiamo visto con la col mostro più grosso, quella tiritela tu, quella c'è più resa. Vabbè, come mi stai ascoltando già? Bene, di radio tutto, vabbè, segnale sono 6 watt. Segnale più basso delle altre volte, invece che essere 9,25, 9,30 e 9,15. E vabbè, sono con 6 watt. Sto provando il Simba SSB50. Se non c'era un problema, la colonnina era muta, quindi ho cambiato la colonnina perché l'ha rotta e adesso mi aspetto bene. Ok, cos'è il tuo casino? Ah, c'è qua la varia, c'è una fattura. Vabbè. Ok, dai, riprendi, fai girare. Non c'è Giuseppe. No. No, non andiamo a provare a far te. Penso che non sia ancora tornato. Ma c'era anche Gigi. Quando vuoi venire qua a fare quel lavoro stamattina? No, non ne ho voglia, Massimiliano. Non ne ho voglia. C'è come delle cose da fare qua che ieri mi ha mandato quel deficiente, mi ha mandato questa radio. L'avevo messa da parte, oggi l'ho tutta pulita, messa a posto, ho cambiato l'altoparlante esterno e me la sono fatta, dai, quello lì non c'è problema. Ma dove c'è lavoro una sera deve stare qua e mi cambi con le lampadine. Vabbè, tanto io adesso non male, facciamo a ponte e dopo domani devo con festa. È vero, c'è anche il 1° maggio, vabbè, io il 1° maggio lavoro, quindi no. Non sono come voi, impiegati statali. Lavoro, impiegati statali. Oia. Vediamo fuori, Vulcano, Gigi. Niente da fare. Riprendi già. Gigi deve aver combinato qualche cosa, voi. Scusa, questa mi state ascoltando bene la radio. Con 4 watt e mezzo. Sì, che va bene. Va bene, va bene, va bene. Molti bassi, forte. Io non so se questa radio a te, Massimiliano, ti ascolto bene. A Gianni continuo sempre a dire la stessa cosa, lo sento saturo. Non so se questa radio. Tu come lo senti a Gianni, Massimiliano? Senti tu a Gianni per bilanciarmi se questa radio, se è lui che aumenta sempre un po' di più la potenza, non lo so, io lo sento saturino. No, è sempre come ieri, non l'ho toccata, l'ho riportata com'è, ho provato a metterla più avanti, poi l'ho riportata com'è. Non ho toccato nulla. Tu come lo senti, bene, Massimiliano? Non so, è comunicazione, però è comprensibile. È fatto, va bene. C'è una leggera compressione anche da te? Sì, vabbè. No, no, è comprensibile, però a volte lo sento molto più chiaro, capite? È perché le porta via l'eco e tutto qua. Va bene, adesso sto facendo scaldare il 131, quindi così è liscio questo Simba, 6 watt, siamo in posizione, e questo ne riceve 20, allora guardate a vedere se aumenta da questo passaggio a quest'altro passaggio aumentato. Qui vai 9 più 30 andate, capito qua. La radio è rimasta un pochino aumentato, però il segnale è aumentato di parecchio. Cos'è? Varia la radio? come fa a dire la radio. Ma stavo guardando, dico la verità, ma stavo guardando perché stavo leggendo il giornale. Quindi no, non succede niente, eh? Se ne aumenta però così. Sì, ce n'è una bomba. Vabbè, con questa radio mi da 150. 150 watt, dai, così watt di pilotaggio. Positivo, io non potete trovare così, ho provato qua, cambiato il microfono, ho messo le MP più 4. 9 più 10 stecco con questo baracchino. Questo passaggio invece, così sono un HI, così sono, potrebbe sentire mai 13-14. No, questo è tutto sacro. Sacro perché è lei. Così? Ha cambiato? No, no, è incomprensibile la modulazione. Cos'hai toccato? Niente, mi va, ho messo 5 volte e 15 volte suoi. No, io ti ascolto, incomprensibile, non lo so. Non lo so, vabbè. Ok, dai. Comunque, no, 48 io non l'ho aperto, non si vede. L'ho lasciato così, perché non me la fotti nulla, poi con calma le cambiamo, non è un problema, mi interessava mettere a posto questo che era lì per terra e lo volevo sistemare. È positivo, è avanti grande. Come hai fatto a sapere che c'ero? Direi che è ferosa, c'ho io sempre sovramodulando, stai, eh? Negativo, non ho sovramodulato. Evidentemente mi hai sentito prima. No, non ti ho sentito prima. Ti ho sentito sopra il cuore, devo dire, un passo, un passo. Figliacco, cazzo. Adesso un passo sopra, così impara lui a rompere le scatole. Mortale, sì. Io ti passo sopra. Un baracchino, ma vuoi fare attaccare l'altro perché io sono Fabrizio. Guarda che mortale, vedi. E già mi ha detto la tua risposta, e ho voglia. Tu veniva attaccato a Gianni, adesso lo permettessi, io lo baracchino, no? E via, via, su da noi siamo bovari. Vabbè, comunque sto baracchino va bene, dai, non ci sono problemi, pensavo che non stesse funzionando. Comunque qua non si nota la differenza, nel senso sei 9.30 spaccato, tutto a destra, alla grande. Sì, io sono un baracchino, sto provando questo baracchino base. L'ottano più 3 sempre l'ottano più 3, oramai questo turner si rigioca tutti i baracchini. Avanti, doppio rotto, avanti. Tu immaginate che crepi a tutti adesso con l'antenna nuova, tanto a tutti me. Solo con Fabrizio te lo devi giocare il posto. Comunque, cosa c'è attaccato qua? In questo baracchino, niente. E allora ci devi buttare il Kenwood. Passo, come non mai, segnale. Se mi dici che sei liscio con quel baracchino lì, guarda, sei a tutta canna qua. No, con questo no, con questo così sì, è la potenza sua. 6 watt, 7 watt modulati, c'avevo il 231 quando tu mi hai sovramodulato. Allora l'ho attaccato. Ah sì, 9.10, 9.20, quando attacchi sei a tutta scala. Così quando mi è sovramodulato ero così, poi quando ho fatto così, questo è il 231, però la modulazione mi interessava che non cambiasse, capito? No, io ho un riverbero strano però, capito, un po' di, adesso utilizzo un termine che non è giusto, però un po' di barattoloso dietro, fa un po' di riverbero. Un po' di riverbero, sto parlando a voce molto bassa e lontana, molto bassa e lontana perché c'è l'aria che è ancora a letto, è entrata molto tardi stamattina, va bene. Allora, 750, ci interessa qualcuno. È una 2G 750, che cos'è? Una scatoletta. Capo, quanti biscotti? 2,5. Quanti euro? Biscotti, ma tipo quanti dici? La gava, 2,5 me l'hai detto. Quanto quant'è? Non va 2,5, era molto di più. Quello è 24 e 12 va, capito? A 12 ne era intorno ai 2,80, così è tra 2,80 e 2,85, quanto ne va? Sui 2,80 sì, a 12 volte 24 ne era sui 500, 4,80 500. Brava. E quanto ne vogliamo? Euro di 250, costa 600 euro. Adesso me lo guardo un attimino a livello visivo su internet a vedere com'è fatto. Ma come è proprio il classico ZG con gli scatti laterali e due interruttori? Positivo, poi è stato presente e incorporato. Già funge. Ma me lo guardo e ti faccio sapere. Adesso mi ha mandato lineare anche a me un 200 watt e un BRL 200, due valori, altro nuovo. L'ho attaccato, aggancio al relè, però c'è qualcosa che non mi convince. C'è il ponte delle valvole che secondo me è sbagliato la grande lì. Ma è sbagliato di brutto, bisogna farci avere a Fabrizio domani, tanto deve venire qua a portarmi quella radio da dare a Sandro. Glielo faccio vedere, c'è qualcosa che non mi convince. Ma non vedi il 131? Marco, se mi dai il ruisi te lo ritorno, eh. Sì, adesso fate male, guarda, la mamma. Vabbè, l'hai dato un amico che è morto. No, è un gioiello, sto lineare. Per i baracchini, guarda, non ci sono trasferisate che lo battono. Solo il B750 lo può battere, ma gli altri, il B300 ce lo mangio. È una favola, sto lineamento, veramente, fatto con criterio, con molto interesse, veramente. Poi c'è questa favola che più scalda e più cammina, non ha bisogno di vento, no? Adesso tu immaginati che sono con 6 watt di pilotaggio e ne sta dando 150, pieni, modulati, come portante fissa 120, modulati sono 150. Con l'R48 mi dà 200 piedi, è una cannonata veramente, è ottimo. Va bene, sì, va bene. Intanto, se vuoi far modificare col B131, lo mandiamo a Roberto, ti fa lo stesso lavoro che ha fatto a questo. Lui dentro vate bene, dai, ma veramente è uno spettacolo. Scusa, allora invece utilizziamo Fabrizio, ci mettiamo nella condizione di fargli vedere come ha modificato. Intanto sicuramente ha modificato poche cose, mi ha girato due cavi, ha alimentato prima la valvola che perché me lo stava spiegando Sandro Conan. Se lo diamo a Fabrizio, vedendo il tuo, sicuramente riesce a rifare il mio. Ma ne ha cambiato i piedi della valvola, non c'è la 509, no? Sandro, io ti ho sentito parlare con lui usa la 509, questa c'è una L811 che è da 200 watt la valvola, quella che è molto originale è da 100 watt, capito? Quindi non penso che io non vedo niente, vedo solo i piedini, la nudica del piedino molto più grande, la valvola più grande e poi c'è qualche... Ho visto transistor, resistenze molto più grandi, perché lo conosco il 131, come è fatto. Ci sono i condensatori molto più grandi, ha fatto un bel lavoro, ha cambiato un sacco di cose. Quanto ne vorrebbe? Non so quanto, da me l'ha venduto Massimiliano già modificato, non so quanto gli ha preso a lui per modificarlo, boh, niente sai tu Massimiliano. No, negativo, io quanto l'ho comprato l'ho venduto, così mi ha dato a me e così l'ho dato a te. Ma che non ha diciamo, con la 501 possono non rimanere a 100 watt, mi sembra. Quello mio al massimo, almeno pilotato con 4 arriva a 80. La 509, ciao, la 519, adesso non lo ricordo neanche. Io ne sto dando 6 watt o quanto, ne sto dando 150, capito? Tu immaginati da così a così liscio, aumenta parecchio, così sono 6 watt neanche. 5 watt e mezzo, e no, non cambia assolutamente niente. C'è la Gianni Lopiolo, ma finito la legge giornale. Eia. E cosa dice? Da 9:15-19:25, vai. Già va, i watt sono quelli, sono 150. Con questa base qua, con la 48 lo spinge molto di più. Va bene, poi poi l'ingresso è stato modificato, non è più da 10 watt, da 20 watt, da 0 a 20 watt. Ecco perché con la 48 spinge molto di più, perché c'ha più watt di picco e quindi lo manda più in tensione. Mentre l'originale mi pare che sia 4-10 watt, così è. Caparugger. E con quel range riesce anche a quasi diventare un HF per la frequenza che non lo è, però lo puoi pilotare anche con un, non dico con un Kenwood, perché se fischi lo spacchi, perché con quelli che c'hai tu c'ha picchi di 50 watt, figure. Anche io ho fatto tanti voli a casa tua, io sto usando 4 watt. Savoia, stai arrivando 9, importante 9-10 da importante muta e 9-30 quasi modulata. Questo è l'MB4 che mi ha fatto un bellissimo regalo Mr. Carlo Spardiero, con il Mobico MB40, tutto liscio. E così un'aggiunta di 200 watt, avanti. Così si è salita a 9.30 fisso. Quelli sono 200 watt, e così 4 watt normale. Cioè, però una leggera alternata quando attacchi. Va bene, la mia roba di microfono, va. Va bene, va. Vento, no, Similia. Così sono 200 watt, la seconda marcia. Va bene. Anda bene. Va bene. Ho già. Sì. Questo è un Mobico, come sta dicendo, messo il satura, non ne mette tutti i watt su. Quelli sono 15 watt su di baracchino, vero? Esatto, ma quella modifica tu ce l'hai presente, perché sicuramente va bene anche per il mio 45. Come posso dire, bisogna avere guardi, devo aperti tutti e due vicini. Così sono 13 watt di baracchino, 13 watt, tondi tondi. Adesso ci sentiamo, buon pranzo a tutti e ce ne andiamo a mangiare. Alle prossime, bulldozer qua, passo il QRT, buona carica per tutti, ciao. Ci sentiamo, buona carica anche a te, dai, quando la farai. KK, avanti Grode. Avanti Claudio. Ma non è se cambia qualcosa con Saventa, sempre con la stessa radio. Alternata. E già, lo stai sentendo tu? No, ma ce lo sento anche io l'alternata. più che alterato è come se ci fosse un falso contatto, qualcosa del genere. C'erano 4-5 gruppi che si alternavano sul palcoscenico. faceva musica rap in sardo, l'hai sentito? Sono negativo. No, ma non stai parlando degli stentale? No, non è stentale. Era un altro gruppo che non mi ricordo come si chiama, non li ho mai sentiti, mai visti. Erano bravi. Devo dire che è la bellina, anche se nel sardo, perché a me, diciamo, non è che amo tanto le canzoni in sardo, la verità, ma ci sono dei tipi di musica che con la canzone in sardo fanno bene, tipo anche quello che fa Maragliacchia. Guarda per vedere se c'è ancora. Sì, è peggio qua. No, questo è il momento, a cazzo. Guarda che chiudo il coso qua. No, ammettono, ma è una cosa inudibile. È un bel forte, mica. Oh, è qua. Cos'è, Andrò? Microfono sarà. Buonasera a tutti, dai. Il microfono. Sente anche quando fischi fa vivi. Prova a toccare il microfono in più pratica, deve essere un po' rimasto. Anche così lo fa. Eia. Che cazzo la figlia adesso? All'interno del coso dello spinotto, eh? Vabbè, continuate che lo provo. Ma adesso, per un attimo si è andato via. Così è andato via. No, per un attimo, però, sì, anche adesso vado. Devi avere qualche tavetto che sta toccando all'interno dello spinotto, capito? E lo manda a massa. Così. Non c'è così. Si è diminuita moltissimo. Ho capito. Aspetta, lo sia che tirando e facendo si è staccato qualcosa. Ti stavo dicendo, ma lo sai, oh già, che gli stentale a Cagliari dovevano fare un concerto, lo devono fare per Sant'Effisio. Ma avevano chiesto una cifra troppo alta per il comune di Cagliari che non ce la faceva a pagarli e hanno deciso, sono scesi ad accordi in breve al compromesso che gli danno metà in soldi e metà in pecore. Ah, vero? Sì, non sto scherzando. Era anche pubblicata la notizia. Che vabbè, intanto loro vivono da colorita, la pastoriccia, quindi le servono sempre. Secondo me è un'immagine che si danno, dopodiché ieri prima che arrivassi tu se ne sono andati via con un SUV che lo dovevi vedere solamente. Ma l'ho cantato presto? No, poco prima che arrivassi tu. Che palle. La volta che li ho sentiti ali punti erano bravo. Mi sono piaciuti molto. Ali punti. Fanno le battutine, segnali stradali, particolari. Sì, ma poi dice, adesso ci dovrebbe essere una Nox fra un po' di punti, a ottava, se non mi ricordo. Ti dico anche la data, 22 di maggio. Ma questa è. C'è la Nox. Festa di Santa Rita. Che ore sono? Che sabato? Non avete mangiato? No, ragazzi, infatti adesso devo scendere un attimino a prendere una cosa dal furgone, dai. Ci sentiamo dopo, comunque 1:30. Rimango in quel Rix. Kappa, vado a vedere anche io, là. Io sono tutti cordialmente, anche sicuramente sarà per essere pronto. Sentiamo a dopo, là. Non fa ancora. Via. Lo sto facendo ancora. Io adesso più forte. Più forte? Dici un po' di confiare. passa, no? Adesso controllo, aspetta. Mi sa che quel cazzo di cose, per carità. Non ce l'ha un altro microfono a provare? Cosa? Sa, non ce l'ha un altro microfono a provare? Niente, perfetto. Adesso ti sento benissimo. Questo è problema C80, perché mi ascolti bene. Papà, lei l'hai attaccato a quello lì? Ecco, l'adattore, sì. Cazzo, adesso si sente benissimo, Cla. C'ha difetto, c'ha quella cosa. Il microfono suo, adesso va a provare, lo controlliamo. E vabbè, questo è mio, così a manetta. Ora già attiva, mi interessa sapere se la radio è a posto. Una bomba, extra, una bomba. No, a manetta, Era quello il difetto, l'ho capito subito io. Lo so che è così. Non era, mi è successo una volta, ecco perché lo so. Adesso controllare, non è problema. Ce ne abbiamo il tempo, c'è una lineare da controllare. Mi hanno dato un lineare. Adesso vediamo piano piano. Passare, lo prendo, vediamo che cazzo c'è in questo. Così abbiamo un pezzo di lì, non funziona. Devo dire che funziona. Allora, ecco qua. Tutto ci sta strano. Allora, qua c'è un finto di mettere la cartetta. Ah, la sua cartetta c'è. Come certo si fa a fare questi lavori? Perché l'età è mia. Va bene, l'ho trovato. C'è la massa perfetta. Ho ragione, È inconfondibile quel rumore. Cazzo, se c'è la massa attaccata te lo fai. Scappa. È inconfondibile, guarda. Io me ne sono accorto subito. Noi. Ma da voi, è maledetto, vabbè, lo salvi, tutto finisce lì. Sì, cazzo, mi stavo un po' pinato, tutti sti cazzo microfono che c'ho qua. Non so come fare, esci, moria, è un casino di quel cazzo. Allora, sono entrati a F2, me l'ha mandato. Qual è il microfono che c'è tu, Gianni? Sentito benissimo, non c'era, non andava a casa, sono entrato. sono entrato un pochettino io, me ne sono andato poi. Ah, tu lì, vabbè, no, io non c'ero, mi sono fatto, è vero, una faccina dice che è tratto la mezzanotte. Una buonissima giornata veramente, sono un caldo la Monica ce l'ha davvero. Pure qua si schiantava. Infatti sono la pianta aperta qua perché c'è troppo caldo, guarda. La serata lì a Valghero. Sono stato una minchia, non vedo una minchia. Aspetto che sto salvando questa cosa. Aspetta. Non è che mi converti se però. Che incidente della famiglia di due? quello della Peolcia? Già non so chi è, già se lo conoscevi pure tu. Ecco. Proprio là, rimango in quell'X, poi vado a mangiarmi un morso, che anche io sono in aspettativa. Mamma, grazie signora. Di chi è pronto a mangiare? Ok, va. Ciao, sì, dai, vai, non c'è problema. Ahia, bravo. Ciao, bravo. Ci si sente. A più tardi, dai. Ok. Che notizia, che notizia, che notizia. Ah, arrivi, José, grazie. Che notizia, che notizia. Ah, vero, è successo. Thank you. sale matera. Sono positivo, dai, dai, vai la parte di casa comunque, comunque. Matera, Matera, città di Matera comunque. Come Maico Alfa, Tango Eco, Romeo Alfa. Buongiorno, il 73. Attenzione Matera, si ascolti Sassari. Positivo, dai, ascolto Sassari, ascolto. Positivo, con che radio ti arrivo delle tue coordinate? Santiago 5 qua Sassari, ciao, buongiorno, ben ascoltato. Alessio da questa parte, città di Sassari, buongiorno, avanti. Città di Sassari, com'è il nome? E non ti ho capito, cosa hai detto? Il nome è un attivo Alessio, buongiorno, avanti, hai copiato, sì? Alessio, io di nome è Eustachio, io ho un cavallo d'oro, copiato amico. Ascolta, ma giusto cosa c'è? Te l'ho toccato? su. Però se non arriva giù, se non ce l'hai giù, in piano terra, voglio dire, in basso, a livello di strada, se puoi dire, c'è un rubinetto a 50 centimetri da, dal coso, capito? L'idrometro è collegata all'acqua, al contattore. E, voglio dire, a livello del contattore c'è un rubinetto, io mi uno giù e non ne scende. Scende un filetto adesso. Però se sta girando il contattore, dici? Capito, se sta girando il contattore, controllo. Sì, guarda, vedere. Mi devi dare il tempo, sai dove è nella strada il contattore? Cosa devo guardare? Quelle rotelline piccole stanno girando? Sì, quelle rotelline se stanno girando qua. Non voglio vedere se in pressione la linea. Che va. Devi dare il tempo a quello qua. Ah, vai, adesso sono aperto lì. Oh, Claudio. So. Che? Claudio, se mi siete un sacco qua io, Sì, sì. E beh, sì. Non gira niente, si vedono solo i numeri, l'altro è tutto coperto, c'è tanti anni con il contattore, non si vedono quelle rotelline che girano, quelle non si vede proprio niente, sono coperte da, non lo so, sono coperte proprio qua, si vede solamente i numeri del contattore e basta. Allora l'acqua giù sta scendendo non forte, appena, diciamo un filo ne scende, e aria perché non ce la fa arrivare al piano di sopra, il poche però sta scendendo un filo, sai cosa vuol dire un filo? Proprio leggero leggero, a piano terra, proprio in terra in basso, a un metro da terra diciamo. Quello che c'ho in garage, il rubletto di garage, me ne scende un filo. E l'aria non ne arriva su per il motivo che è poca la pressione, capito? Comunque sta scendendo un filo proprio in garage, ne scende un filo, filo, filo, filo, proprio appena appena. E sopra non ce la fa salire. Il contattore non sta girando. Aspetta un attimino, sta aumentando sempre, piano piano, perché lì ce ne aumenti tutto. Tutto non è un casino. C'è qualche problema in condotta, comunque adesso oggi domenica e... un casino, sto cercando di far arrivare più pressione con la goma, però più aumenta più disperde. Sto guardando con l'altimetro, più solleva la portata, più solleva i chili della portata e più c'è dispersione, quindi sicuramente sta uscendo aria da qualche buco, da qualche tubo di rette, capito? Sai cos'è? Te lo dico io, Claudia, che stavo quasi per chiamarti e dirtelo, l'ho messo dimenticato, che la pressione tutta era una cosa esagerata. Su, me, ti sto dicendo che ieri mattina non faceva quando l'ho mandato arrivata l'acqua, era una cosa impressionante quando è arrivata ieri notte. Mi sono svegliato e avevo fatto vibrare, caso quanto c'era, l'acqua in arrivo. Ieri mattina io, tra l'altro sono andato a fare la luce, è una cosa impressionante, ma delle pressioni enormi, che allora addirittura Marco non riusciva, quello scaldino, te l'ho detto, no, perché arrivava a colpi l'acqua, è forte però, ma pressione enorme, ed è sicuramente ha fatto scoppiare qualche cosa. È molto probabilmente sì. Pressione enorme, un bel di pressione, ma una cosa impressionante, ti ho detto. Ciao già. C'è perita, è arrivata questa pressione, come era troppo la pressione, questi butti d'aria che era una cosa impressionante, l'ha fatto partire e scoppiare qualche cosa. Sì, sì, sicuramente sì. Adesso mi sta, mi chiama tra 5 minuti, sta controllando se praticamente c'è con l'altimetro, se riesce a migliorare, ma sarà molto difficile. Sono molto difficile poi oggi domenica, ma quello vicino a te come sta invece? Com'è? Sempre uguale come sei tu? Positivo, la stessa cosa. Il coso lì arriva, che non ne ho io non ne ha nessuno qua a Ottafa, quando non ce l'ho io non ce l'ha nessuno. Ma è mai possibile? Quando siete così? Nessuno è andato a reclamare, nessuno ha fatto niente, cioè così. Quindi ti dica, io perché te lo sto dicendo adesso, perché mi è capitato, se no io non avrei detto nulla, adesso perché lo sto dicendo a te, se no a chi mi sarei detto, non avrei detto niente. Non si riesce a capire, però lì come i grilli ci sono, ma è una figura, ti chiamo, l'ho comprato stamattina. Quindi i livelli ci sono, però mi ha detto molto sì, no, perché arriva a Massì, senza pressione sta arrivando, con poca acqua, mi giù a piano terra, voglio dire, in terra, un metro dal suolo di terra, te lo stiamo parlando, in garage tu lo sai l'altezza mia, o quel bagnetto che ho io, lo sai com'è il rubinetto l'altezza che sono, mi. Se non arriva lì l'acqua, sta arrivando un filetto lì, capito, proprio un filo, sta arrivando lì. Te lo dico che lo conosce già il posto, l'altezza, che sono i rubinetti, capito? Poi a casa arriva forte l'acqua, arriva un bel forte. Dove sono io, tu lo conosci, dove è il mio garage, dove è quel bagnetto, l'altezza che sono i rubinetti, addirittura c'è quello di fuori, che per quello scende pochissimo, quello che c'è passo in basso in quel muretto, prima che entrandomi a destra, c'è un rubinetto lì passo passo, anche lì scende quel filo d'acqua appena, e su non ce la fa, non ci arriva proprio, non ce la fa assolutamente arrivarci neanche una goccia. Quando vengo lì, vuoto, se è pieno il bastone, che, perché ai conti a lui le mancano 5 litri al secondo, sono tanti. Perché sennò sarebbe, c'era una pressione enorme ieri, poi ieri notte invece è aumentata ancora di pressione, che la cosa aveva scoppiato, perché nessuno adoperava l'acqua, sicuramente così. Durante il giorno ieri non si poteva aprire il rubinetto della pressione che c'era, su, io parlo su, quando è arrivata una pressione enorme, poi ieri tutto il giorno c'era fuori, stamattina alle 6 era già più bassa nuovamente, la pressione era bassa alle 6 stamattina. Alle 6 stamattina è preoccupante, se è bassa alle 6, perché i controlli li fa alle 7, alle 7 in poi. Poi ho controllato, gli ho detto, ma la fine che manca l'acqua, stava facendo appena, poi verso le 8 così, alle 8 stava scendendo appena, su, proprio appena, andava e stava diminuendo. Era troppa, una cosa non andava bene come era ieri. Ti stavo dicendo, ti ricordi che Marco ha parlato con le batterie se erano buone, se non erano buone, perché non usciva con lo scaldino, come si chiama, lo scaldino che ci abbiamo fuori. Non riusciva ad operare l'acqua calda, perché no, col butti dell'aria che dava, questi butti d'aria non riusciva a farlo camminare. Si spegneva, si accendeva e arrivava l'acqua, arrivava a sbalzi, a colpi, calda, fredda, e non partiva. Tutto il giorno così, a sbalzi di cosa. Quando faceva vibrare il rubinetto, faceva bum, ma si faceva così quando dava dei colpi e ti spruzzava tutto quando andavi a lavarti, non mettevi a aprire il rubinetto. Non arrivava a continuare l'acqua, arrivava a butti d'aria forte, ma di butti forti dava e dei vuoti. Non era all'inizio quando ti stava arrivando l'acqua, era tutto il giorno che faceva così, hai capito? Tutto il giorno ieri era così, e ieri notte. Poi io, vabbè, stamattina mi sono corso, ho visto che c'era poco alle 6 stamattina, capito? Mi sono alzato, sono andato in bagno, poi sono andato a cercare, ho aperto il rubinetto, ho visto che la pressione non era più quella con quei butti d'aria, era leggera, qua adesso sta andando, infatti poi alle 7:30, alle 8, ho visto che era ancora, veniva un filo vino veniva. Stavo risolvendo la cosa dell'acqua qua, se ci dice, se... ma è stato anche per saperlo loro, dai, questi del diciamo che stanno facendo i controlli, anche per saperlo loro, per verificare bene ci siamo perdite, perché l'acqua già costa quella che costa, e poi è meglio non vale sprecata così inutilmente. Ascolti il più piccolo modulatore del nord Sardegna, Roberto Stazione Grimina, ascolti il più piccolo modulatore del nord Sardegna. Siamo però il voce di nuovo, vorremmo una voce a dirle che non sentiamo. Mauro è un altro, è questo nostro che ci abbiamo in Sardegna. Robè, è il più grande modulatore della Sardegna, chi è il più grande modulatore? Robè, chi è il più grande modulatore della Sardegna? Capito com'è, Robè? Tu devi capire chi sono io, ho detto, io sono

sta andando lì, sta andando. È un turco, turco toscano. Oh, turco toscano, mi sto preparando un altro amplificatore, un BRL 200 per Roberto. Qua c'è qualcosa che non mi brucia a me. Allora, intanto ci manca il condensatore, quello a pastiglietta piccolino tra una valvola e l'altra. E poi hanno fatto qua il ponte delle valvole che mi sembra che sia sbagliato. Perché il relè incolla, come incolla il relè si spegne il lineare, quindi c'è qualche corto. E allora adesso glielo prepariamo, quando mi manda quello là le mandiamo questo, così facciamo riparare anche questo, vai. Gli ho telefonato, mi ha detto che è una coglionata, lo sai che no, mi ha detto che non vuole niente. Ho detto no, mandami un foglietto dentro, dimmi cosa ti vuole, altrimenti non ti mando nessuna niente, perché ho detto c'ho roba da mandarti. Ho detto la prossima volta paghi. Adesso non ci ho rimesso niente, ho solo cambiato due resistenze, piccolini a un diodo, quindi no, non mi sembra il caso. Mi ha detto la prossima volta te lo metto in conto. Ma esattamente, tanto avrei detto qualche minchiata più grossa che ci ha messo, ci ha cambiato e ti avrebbe fatto pagare. È stato anche onesto, a parte che l'ho chiamato anche ieri mattina, ti ricordi cosa gli ho detto? No, oggi io ho fatto finta che non c'ero, no, ma già ti ho sentito. Infatti mi ha detto, mi ha chiamato Gigi ieri e mi ha raccomandato il tuo amplificatore, l'ho detto, ah, non lo so, no. Gli siamo sentiti ma non mi ha detto niente, ma ha detto vai tranquillo Claudio, è tutto sotto controllo, il tuo amplificatore già in funzione, con 5 watt d'ingresso ha detto da sui 500 watt, se poi aumenti la potenza c'è un picco di 900, e quindi mi ha detto va alla grande. Poi gli ho detto io guarda che volevo usare quello da 48 modificato, quello che aveva Gigi di tanti anni fa. Mi ha detto allora hai fatto bene a dirmelo, ti metto un ingresso superiore ai 10 watt, così il picco lo tiene bello stabile, se le cambia, non lo so se le cambia, perché non mi ha detto niente, Gigi, capito? E allora ha detto già ci pensa lui, poi mi sta sistemando la ventola, mi sta mettendo praticamente per la velocità, per diminuire la velocità, diversamente me ne metti una a 12 volts e col trasformatorino all'interno 12 volts, capito? Perché dice che quella è troppo rumorosa, vai. Ma si vede che è molto bravo, si vede che è molto bravo, adesso le do una mano, ma ha detto che vuole a mandarle la documentazione per avere gli esami e se c'è qualche libro gliela mando, dai. Gliela mandiamo a fine settimana, magari alla prossima gliela mandiamo con Giorgio, le faccio un pacchettino piccolino, la metto dentro il libro, tutta la documentazione, perché vuole prendersi la patente e avere il nominativo che aveva il padre. Sono padre, se trovami, non è morto, se trova ancora vecchio, non si ricorda più niente, dai, c'ha un po', come si chiama, la memoria, non si ricorda più niente, capito? Padre è un radioamatore, il padre era un radioamatore e poi era un radiotecnico che aveva un laboratorio che riparava televisori, radio e capito, faceva tutti gli apparati della zona, li faceva lui. E lui c'ha tutta la stazione del padre, c'ha tutta l'attrezzatura del padre, capito? Lui, in poche parole, non ha preso il diploma, capito? Però lui è stato sempre a fianco del padre, da ragazzino, ha imparato dal padre, capito? Poi invece di fare quel, ha studiato, sì, però invece di fare quel lavoro lì ha fatto un altro lavoro, però se lo fa perché c'è la passione. Se tu vedi il laboratorio che si è fatto, no, a volte non c'era neanche qualcuno qui a casa, è un laboratorio che si è fatto sotto, la casa si è costruito lì a Domusnova, si è fatto uno scantinato, un coso sotto, ha fatto un coso enorme, che c'è la stazione con tutta la strumentazione per fare i lavori, per lavorare. lavorare, più si è piazzato tutto, una cosa proprio bella fatta, io sono un giorno sono passato e l'ho vista, ma sono stato meravigliato, c'ha delle radio antiche, di quelle radio come c'è tipo certo, di quelle grosse, grandi e ha tante di quelle robe lì, capito? Ehi, ho positivo anche perché mi ha chiesto lo schema di una radio decametrica che ho io e l'ho detto e gliela mandavo, capito? Adesso appena mi manda quella roba lì giù le faccio un pacchettino, una busta, la metto tutto dentro e la diamo a Massimiliano, a Giorgio e gliela mando. Lo schema del 101 della IAESU, che ha detto che c'è un problema su un variabile, però non ha lo schema, già glielo mando io. Infatti mi ha detto se hai qualcosa decametrica da mandarmi non ti creare problemi perché le conosco molto bene. No, gli ho detto c'ho alcuni, ti voglio mandare un Galaxy Uranus a modificare, mi ha detto mamma mia, mandamelo che te lo faccio bello, sì. E poi un altro lineareto sempre valvolare con due valvole che è in corto e vediamo se c'è qualche altra cosa, non lo so. Adesso mi ha detto fammi liberare da questi baracchinetti che ho, poi ci mettiamo a lavorare seriamente, perché se tu mi mandi roba decametrica, dice a me piace molto, e quindi gliela mandiamo, vai. E la mandiamo a Ruby, cazzo, dice che è una bomba, un amplificatore. Sai che pensavo fosse un difetto quello del relay, invece il relay lo devi tenere praticamente quando è in stand by, che tu accendi l'amplificatore, mi ha detto che metti la posizione stand by, il relay aggancia, capito? Aggancia perché deve dare l'alimentazione alle valvole. Non è come quelli di ultima generazione, dai, è un amplificatore di vecchia generazione che funziona così. E quindi già io pensavo quello fosse un difetto, invece non era un difetto. Poi c'erano altri due condensatori, un diodo e una resistenza sotto la piastra che non ho visto scoppiati. Me li ha sostituiti, ma tutto allineato, le valvole mi ha detto Claudio, sono nuove. Quindi il problema, tu pensavi fossero le valvole, invece le valvole sono perfette. Le sto mettendo le luci nuove agli strumenti e mi ha detto è a posto, lo tengo in funzione io per tutta la settimana, poi alla prossima dice te lo mando giù assieme a tutta l'altra roba di Luigi. Che lo tenga sotto controllo, ve lo provi, dai, che lo provi e lo tenga sotto controllo, dai, ma lo fa anche quando gli mando, quando mi fa gli apparati a me, quelli che me li modifica, me le tiene una settimana sempre sotto le prova, gli assi accesi, sta sempre a vedere se cambia qualcosa, dai. Gigi, lì bisogna tenerlo sotto controllo perché tra l'altro poi sono delle cose molto delicate, capito? Non è che le puoi tenere così. Quello è un amplificatore grandissimo, da 1,5 kW, figurati. Io una cosa sapevo, infatti lo metto, non ti sei accorto che lo strumento invece è scritto 2 kW. E già l'ho visto, ma vedendolo come è fatto dentro, dice sì, vedendolo come è fatto dentro, ma non hai visto la tensione che arriva alle valvole, tu c'è una tensione anodica, dice che è impressionante. Io non avevo mai visto una cosa del genere, cioè, credo che sia uno degli amplificatori più grossi degli anni 90, perché quello mi pare sia stato comprato nel 97, mi ha detto, e infatti già lo usavo, ho detto sì, quello è stato comprato nel 97 e poi è rimasto fermo perché il proprietario è morto. Quindi mi avete quegli anni lì, lavoravano in quella maniera, ma c'ha quattro valvole accoppiate con la rodica doppia, quindi ha una tensione allucinante. Positivo, no? Già, per quello già è bravo. Per quello già è, non c'era di niente, perché lo so i lavori che fa e riconosco il lavoro. Io, guarda, conosco di persona, prima, senza andare, senza niente, ho conosciuto prima lui di persona, in persona, che è conosciuto a te in persona proprio, ma lo sai? Che addirittura, e allora vi conoscete molto bene, dai. Ma infatti ti ho sentito quando l'hai chiamato e ha detto gli ho detto non ti preoccupare, infatti l'ha preso subito in mano lì e l'ha messo sotto e l'ha controllato subito, capito? Ma l'hai chiamato tu o ti ha chiamato lui per dirti che era sotto il sedere l'amplificatore? Chiamato lui, stavo pranzando io, mi ha chiamato lui, stavo pranzando e ho sentito la sua chiamata, mi ha detto così, ce l'ho aperto, lo sto provando, così ho detto, poi ti ho chiamato, ho detto, ma chiama così, lo sta ancora provando e vedi un po' cosa, infatti te l'ho detto subito, come mi ha chiamato lui, stava ancora, non aveva pranzato, stava ancora facendo quel lavoro, lui doveva cambiare quelle lampadine, mi pare, mi ha detto quelle cose. Propagazione stanno nuovamente arrivando, vai. Buonasera, guarda il canale 45, modulatore puro sangue dell'isola nord della Sardegna. E Torra Criminal, da lui. Stantio risponde, è impossibile, esiste che arrivi il amplificatore che ho collegato alla chitarra radio. Che mi dà l'impulso Roberto, mi ha detto non ti preoccupare che non succede niente, ti sto mettendo i condensatori doppi con un ingresso picco di modulazione di 20-30 watt, quindi l'importante è che tu non le dai 20-30 watt a portante muta tu danni nei 2,5, 3, 4 così, poi per il picco di modulazione dici non ti preoccupare, già ci penso io, allora praticamente che tu 231, cioè 131, minchia adesso, 200 volte da questo linearetto la 48. Tu vuoi da quello che l'ha fatto lui, l'ha messa a posto, l'avevo preso io perché la voleva, me l'ha proposto, guarda se interessa qualcuno, e l'ho detto, e Massimiliano se l'ha preso lui, capito? Cane morto, sai cosa mi ha detto? Nel 10, allora riparo, ma non è dai 131, no, l'hai già detto, manco se me lo chiedi in ginocchio te lo ritorno, questo fa, oh, conosci pure che glielo dia, conosci pure che glielo dia quando mi arriva quello grosso, conosci anche che glielo dia, non lo so, adesso vediamo. Ci riguarda un regalo, amiche, quello lì, Roberto, che ci ha fatto. Capito, me l'ha chiesto, cioè, quasi un regalo, amico, forse non hai capito, non è che l'abbiamo pagato un granché, quasi un regalo era. No, io Massimiliano, ho detto se me lo vendeva e gliel'ho pagato, capito, no, non me ne frega niente, se lui l'ha pagato poco, grande, troppo, non me ne frega niente, io gliel'ho pagato e sono contento perché volevo un aiutino sui baracchini. Oh, cazzo, quando l'ho provato mi sono accorto che è una bestia. Con 6 watt di pilotaggio, tu immaginati che da 150 watt. Con la 48, al picco di modulazione, al fischio, supera anche 200. Quindi va più che bene, dai. Adesso li attacchiamo quello grande e poi si vedrà. Positiva, no, già va bene, no, giustamente Massimiliano gli ha fatto altri lavori, ha fatto baracchine, ha speso soldi Massimiliano, capito, non è che, come a me, certe cose a me me le fa, e giustamente non mi, perché gli faccio fare tanti lavori e tante cose, diciamo, tante cosette me le fa a me, però se c'è da mettere pizze e cose, ma molte cose a me, diciamo, di mano d'opera, cose così, non me le fa pagare, capito, solo se ci sono pizze, cose così, che costano qualcosa, quello che costa me li fa pagare, capito? A me però giustamente non può fare a tutti, voglio dire, però io che ho un rapporto buono con lui e gli faccio avere tanto lavoro, quando mi serve qualsiasi cosa che mi serve a me di fare, me lo fa, glielo manda adesso e me lo fa, lo mette davanti agli altri, anche se non mi fa pagare nulla, me lo mette davanti agli altri, capito? Anche Pierpaolo, il suo, glielo ho mandato, il lineare, quello che è l'altro, però giustamente non mi ha fatto pagare nulla, però Pierpaolo lo ha fatto, gli ha messo due lacci di salsiccia, una forma di formaggio di ricotta mustia di quello di Usilo, gliel'ha messo dentro un pacchetto e gliel'ha mandato, capito? È normale che bisogna fare così, dai. No, ma io adesso appena mi manda quello lì per non questo altro amplificatore, allora se lo faccio fare i lavori che ci sono da fare, che mi ha detto che si spende molto poco perché ci ha predisposto di tutto, e poi mi faccio sistemare con l'amplificatore così lo pago, capito? Mi faccio inserire anche questo intervento che ha fatto adesso, non ci sono problemi. Poi pian pianino, visto che c'è un numero di telefono tramite Massimiliano, qualsiasi cosa necessità, so che posso contare su di lui e gliela mando Gigi, no, non c'è problema, intanto ti sto dicendo, le mando anche questo manuale della IESU che le serve, e poi c'ho anche delle valvole che mi ha detto che le servono per una linea decametrica, ce l'ho, le Seiota BC, le mando anche quelle, le regalo, quindi no, non ci sono problemi, dai. Vedrai che com'è instaurato già un buonissimo rapporto, nonostante non ci conosciamo, ma tu lo sai come sono io, non vado a queste cose. Positivo, ma già comunque l'anno scorso non ce l'ha fatta, che sono partiti e non ce l'ha fatta perché stava lavorando la mattina e quando ha finito erano già partiti da Inglesia, gli altri amicacci suoi, quando ha telefonato erano già partiti, hanno fatto in tempo, ma quest'anno speriamo che ce la fa a venire, così lo conosci. No, niente, ti ricordi quel lineare che mi hai dato tu? Quello me l'ha fatto lui, e non mi ha preso niente, te lo ricordi, non mi ha preso 5 lire, me l'ha fatto, me l'ha fatto quel lineare, c'era Massimiliano, ha detto gira a casa di 400 watt su quel lineare lì, quello da due finali. Vabbè, figurati tu, vai. No, mi sono accorto di questo 131 che è veramente una favola, perlomeno quello da 48 lo fa rollare alla grande, così con io le sto dando 4 watt di portante muta, poi il picco di modulazione chiaramente è un pochino più alto, però è alla grande veramente, funziona molto bene. Poi mi ha spiegato, io un po' ne capisco di valvole, mi ha spiegato che cosa ha fatto, mi ha detto che stava misurando la tensione valvola per valvola ed erano tutte a posto, mi ha sistemato perché quell'amplificatore c'è anche l'amperometro, capito, quindi ti segna l'amperaggio delle valvole e c'era qualcosa che lui non le quadrava e allora ha tarato anche gli strumenti dell'amplificatore. Tu non l'hai visto, Massimiliano l'ha visto, è enorme. Tu immaginati che del 2001 ne fa quasi due volte. Hai visto quella scatola grande che gli ho mandato? Tutto lì dentro era me. Pesa un sacco, un bel. È quasi il doppio del 2001, poi la potenza è allucinante. Minchia, 900 watt da con quelle valvole, c'ha 5 valvole. 5 valvole, 4 più 1, va bene, dai. L'importante è che mi abbia risolto il problema, poi per il resto già lo facciamo girare qua, non ci sono difficoltà, gappa. Se facciamo un po' di bianco e ci sta propagazione, se ci sta lo criminale ancora. Aspetta il telefono. Di binario 4.5. Ascoltate Vulcano Luigi, coordinate nord Sardegna. Antibinario 4.5, ascoltate Gigi Vulcano, coordinate nord Sardegna, fa chiamata. Ma che criminale sei tu, Roberto? Sei tu Roberto, sentito qualcuno che chiamava Gigi Vulcano, Roberto Crimina, sei tu? C'è negativa. Ti dai velocetto al muro, ormai velocetto al muro, ascolti lo spariero originale, capi? Pensavo di non arrivare lì a Budosò, con questo barracchinetto della mutua qua. Poi sei velocetto, il paese o il giro in macchina, sì. Ai, positivo, vai. Già stai arrivando, non ci stanno problemi. Gigi Vulcano, l'hai sentito, abbiamo ceduto il muro. Negativo. Non ascolto io qua, Pinocchio. Pinocchio, no, io non ti ascolto, non so se tu ascolti me, ma tu a me qua non mi arrivi alla mia antenna, Pinocchio. Come mai non lo senti a Gigino Vulcano, Pinocchio? E lui non ascolta a te, però tu lo ascolti a lui. E come mai questa cosa? Come mai Gigino Vulcano non senti a Pinocchio il Moro? Non so, lui gli avevo lasciato, Claudio, quel lineare famoso che stavamo parlando, che aveva fatto Roberto e aveva cambiato i due finali, con quello ci arrivava, lui se ne ha comprato un altro a quattro finali, con questo a quattro finali ci arriva meno di quello che ne aveva due, che adesso c'è Massimiliano. Ehi, hey, Avenu, sentito è Gigi? Ma boh, non so, ma mi ha detto Gigi che si attaccavi l'altro, quello che ti aveva fatto Roberto. Con quello ti ascoltava, mentre con questo invece non ti ascolta, non è sta storia. C'era più, c'era Massimiliano quello lì, capito? C'era Massimiliano, l'ha venduta Massimiliano. E aspetta che sto rispondendo a Roberto un attimo, al telefono. Ascoltando bene, ah, ho sentito, vai. che avevi prima. Quello che ti aveva fatto Roberto, Roberto non ti aveva messo a posto l'amplificatore. Canale 45. Ah, tu non mi intendi, Gevinù? Io lo sento, è killer questo, questo è killer, criminale, criminale. Claudio, ehi, ha fatto un po' di verifiche, dai, ho chiesto, sono andato a fianco, gli altri ancora più avanti. Allora, loro, proprio a gocce scende l'acqua, invece da me in garage, in bagno, perché sono più in basso, scende appena appena, un filo ma scende, tanto sballavate la faccia per i disci. Invece da loro che sono a piano terra, no, appena appena, più in alto arriva proprio, scende a gocce l'acqua. C'è qualche problema in condotta, dai. Adesso comunque con la pressione che gli ha dato lui dovrebbe aumentare leggermente, anche rischiando magari che la falla si allarghi, ma giusto per arrivare un po' più di pressione alla borgata, capito? Poi domani mattina si farà l'intervento, si intercetterà dove la perdita Gigi, perché più di quello lui non può fare, tra l'altro l'hanno autorizzato a rimanere su quei chili, sulle pompe, capito? Altrimenti copia già tutto. Sì, già era troppo, era già troppo che era troppo la pressione. Ti sto dicendo, ieri notte e ieri tutto il giorno la pressione era, in pieno giorno ieri, era una pressione enorme, troppo, era troppa pressione, arrivava a botti proprio di aria, ma tutto il giorno, sino a stamattina invece è diminuita stamattina. Capito? E così adesso sono andato a chiedere apposta, quelli a fianco a me, sono andato a chiedere apposta. Ed è così, scende proprio da loro quasi niente, a tutti a guccia scende, invece da me un po' mi salvo, vedi, giù però, scende un filo, scende da me, perché sono più in basso. Vabbè dai, l'importante è che ci abbi qualcosa giusto per darti una sciacquata, ma io penso che nell'arco della serata ci sia più pressione, perché l'ho aumentata. Poi domani mattina si vedrà cosa è successo, cosa lui ti richiede. Ha fatto un sacco di verifiche, mi ha detto l'unica cosa che posso fare sino a domani è aumentare, con la speranza che non crei problemi stanotte. Posso diminuire la mandata e abbassare leggermente il partitore, così c'hanno più pressione, ma più di quello mi ha detto che non posso fare, sino a domani non posso fare niente. Positivo, dai, no, dai, comunque dai, per saperlo ormai come erano le cose, dai, va bene, dai, quello già ho capito che non si può fare nulla fino a domani, ma te lo stavo dicendo che c'è questo problema, sicuramente c'è qualche perdita da qualche parte, e giustamente bisogna vedere dov'è la perdita nella condotta, noi la ci abbiamo, guarda che te lo che c'è condotta, bisogna vedere dov'è il punto della perdita. Quella è la condotta che da Monteoro scende a Borgo Torres, hai capito? Quindi bisogna vedere dov'è. Positivo, loro già sono di mestiere, glielo troveranno. Ho penso proprio di sì, domani mattina correre i vattori, già fanno i controlli, già la trovano, non c'è problema, può essere anche che sia sotto Monteoro, che sia lì a dove c'è l'inceneritore, ma si chiama questa zona. Se mi viene in mente, già ho capito dove stai dicendo, dai. Già ho capito. Ma può darsi pure. Sempre lì si sfascia, Sempre lì si sfascia, guarda. Quando c'ero io si è rotta due o tre volte. Però infatti è andato anche lì e no. Acqua non se ne vede, hai capito? Di solito si vede l'acqua che sale dal terreno, ma non ne ha visto. Però è sicuramente non molto distante, dai, non molto distante, perché se soffia aria non è molto distante. Positivo. Vabbè, lasciamo, se vuoi arrivare arriva, se no magari non arriva neanche giù, capito? Adesso io ho riempito un po' di bidoni, un po' di secchi, un po' di cose per l'imbarco. bagno e cosa, se bisogna entrare in bagno non puoi lasciare il bagno senza buttare acqua, no? E allora mi ho riempito un po' di secchio, un po' di cosa, e anche una pentola se deve fare pasta, se in caso, ma penso di no, che non mangiare mai a pasta stanotte. Però sempre l'ho fatta riempire, dai, per emergenza non si sa mai. Stanno andando a coso, Massimino, stanno andando a Atene a scaricare la frutta. A Massimino, chiamare il rocero. Gigi, dai. Un po', un pelino per te non ci sono problemi, però più di quello sino a domani no. Non possiamo fare molto. Va bene. No, ma poi è molto gentile questo collega, capito? Gentile e soprattutto molto preparato, quindi sa dove muoversi, non ci sono problemi, ma io ci ho fatto un po' di mesi, dico la tua lettana, quindi già mi so muovere, detto se c'è qualche problema chiamami che vengo anche io. Ma per telefono mi ha detto che è tutto a posto, non ci sono problemi. Vediamo un po' se sentiamo Vinocchietto al Moro, guarda. Boh, ogni tanto sparisce, a Bordeaux, lui è solo, non riesce a comunicare con noi, è un casotto. E già comunica con quelli vicino, vai, con Ossieri, con quella gente lì, già riesce a comunicare, non ci stanno problemi, Gigino Vulca. Già, ciao, nuovamente, già. Che stai operando adesso? Sentivo, no, a posto, a me la sento chiara la radio, va bene già, va bene che bene. Dietro, non ti ha sentito Claudio? Io sento, quando lui si decide che cosa vuole fare in radio, me lo fa sapere, allora Claudio Sparviero ti risponde, Gianni di Chiaramonte, ho detto. Quando tu ti decidi che cosa vuoi fare in radio, soprattutto quando ci sono io, allora io ti posso rispondere e parlare, diversamente faccio finta che non ci sei. Devi sempre decidere tu. E penso che ti venga un pochino male, capito? Per tutto ti viene un po' male mandare a fare in quel paese a me, capito? Quindi non credo che ne abbi l'autorità, visto che io non ti ho mai parlato male, pertanto no, non credo che ne abbi l'autorità di farlo. In caso contrario devi stare molto attento quando ti sposti negli altri canali, capito? Quando ti sposti negli altri canali devi stare molto attento, perché devi sapere che Claudio Sparviero c'ha 40 anni di radio e 52 anni d'età, e quindi non le sfugge niente, è tutto sotto controllo, quindi a buon intenditore poche parole. Quando tu ti metti in testa di fare radio come Dio comanda e di rispettare le persone per i canali che trasmettono, per quello che dicono e per quello che fanno, allora vuol dire che Claudio Sparviero ti può dedicare anche un po' di attenzione. It's cool, my friend. Hola. Oh, Gianni, io non ti ho detto giri la frittata, ti ho detto che puoi essere mio figlio, capito? Io ho una figlia che ha l'età tua, quindi a me non mi girare frittate, che non mi stai proprio dicendo assolutamente niente. Io ascolto moltissimo e quando sono in radio, purtroppo, io ho una stanza da 20 metri quadri piena di radio, capito? Con 10 antenne sopra il tetto, quindi non ho problemi a ascoltare la gente, Gianni. Quindi ti dico solo di stare molto molto attento quando parli, le parole che dici e soprattutto con chi le dici. Perché quando poi a me le riferiscono, se io non ci sono, allora può essere molto pericolosa la cosa, capito? Poi se ti riferisci a quello di buon oro, a me non me la fotti manco banati in camera, capito? Nel senso che lui rispetto. Io posso farne di tutto l'erba un fascio, posso uscire da 100 a 2 kW, quindi non ho problemi. Fammi ascoltare in tutto il resto dell'Italia e in tutto il resto della Sardegna. Non temo a nessuno, né come potenza, né come radio, né come niente. Però ti sto dicendo che il tuo comportamento a radio non è una cosa che a me piace molto, perché dici delle cose che a me non mi stanno molto molto bene, tutto qua, capito? E siccome io ti ho detto che non sono un ragazzino già dall'altra volta, devi avere un pochino di rispetto. Poi se non ti piace come io mi comporto, se non ti piace quello che faccio, non sono problemi miei, ci sono altri canali, vero che tu ti sposti tranquillamente e vai a parlare dove ti piace, e quindi no, difficoltà io non ne ho, capito? Dici Luca, a te il microfono, vai. Mi sono attentato un attimo, sono andato il campanello e invece erano i miei nipoti, il mio nipotino là. E via, Claudia, non lo so, ho visto le tre cose, però mi hanno suonato il campanello e sono affacciate della mia nipote, dai. E via, a posto, chiarito avete. No, ma io non c'ho assolutamente da chiarire niente, io ho detto che mi conosce una vita. Siamo persone grandi e radio dobbiamo avere anche un po' di rispetto. Lui sa benissimo che io gli ho dato sempre man forte, l'ho sempre assecondato, l'ho sempre dato dei consigli e ogni tanto lui fa i capricci negli altri canali, ma deve capire che io le persone che lui sta parlando adesso le conosco una vita, le conosco di persona e quindi quando hanno qualcosa a riferirmi prendono il telefono e me lo riferiscono. Quindi Gianni, per favore, quando parli negli altri canali stai attento a quello che dici, a quello che parli, perché io ti sto ascoltando, e se non ti sto ascoltando io ti sto ascoltando gli altri. Sei sicuramente una bravissima persona, io non ti conosco, però devi avere un modo diverso da quello del tuo pensiero in radio, perché in radio c'è tanto, tanto, tanto da imparare, guarda, ma tantissimo, capito? E ti ripeto, ribadisco che io da qua, da dove sono, non ho problemi a disturbare a te, a 100 come te, con 500 watt o persone che ne hanno 1000. Non ho nessun problema, guarda io. Capito? Però mi piace sempre avere il dialogo con le persone, mentre a te ti ho già spiegato 1000 volte che per poter parlare con Sassari devi assolutamente usare una radio e basta, e tu sai benissimo a quella che io mi riferisco, invece ogni tanto cambi, fai, ma non mi senti, non fai, ma come mai, ma qui, ma là. Io miracoli non ne posso fare, capito? Perché se io decido di farmi ascoltare in tutta la Sardegna non ne ho problemi, non ho assolutamente problemi con nessuno. Gianni, ma non è assolutamente quello il problema. Io quando mi hai chiesto i controlli mi sembra che sono stato sempre l'unico veterinario che ti ha secondato in tutto, che ti ha detto usa quello perché va bene, usa quello perché va male, eccetera eccetera, capito? E tu con i soldi tuoi puoi comprare quello che ti pare, ti piace, poi gli errori che fai te li risolvi tu, non certo te li devo risolvere io. No, io non ho problemi né di baracchini di alta fedeltà e neanche baracchini di bassa fedeltà. Io ho tutto quello che mi serve, funzionante, quando devo usare un baracchino come questo lo uso, perché sono stato uno dei primi a Sassari assieme a Gigi Vulcano che abbiamo usato l'Ora 48 modificato, non ho altri problemi, pertanto non mi ritengo di poter giudicare nessuno, ognuno fa quello che le pare piace. Tu c'è un muro però che non solo a me ma tantissima gente qua a Sassari non piace e quindi devi cercare un po' di limitarti, tutto qua. Poi io non ti sto assillando, non ti sto dicendo niente, ti sto dando solo i consigli in modo che tu abbia certo medico finale, capito? Perché poi alla fine cosa succede? Che parli sul canale 4 come stai facendo, parli negli altri canali con quelle due persone che ti ascoltano e però non hai la possibilità di scambiare due chiacchiere con quelli che veramente ti vogliono parlare, perché io non è che non ti voglio parlare, assolutamente. Cerco un po' di ignorarti per il tuo comportamento che hai, tutto qua. Quindi non è che mi nascondo da nessuna parte. purtroppo è così e basta, no, non ci sono problemi, vai. 10 volte lo senti a Gianni, sì. Tipo, io già l'ascolto. L'ascolto, volevo fare solo una domanda dopo che è finito il discorso, dai. Però c'era qualche cosa che voleva entrare, che stava passando, non so se c'è dato spazio o se è già partito. Sì, Fabrizio, sta venendo qua a portarmi una radio che devo consegnare, dai. Non c'è problema, vai Gigi. E mi hai detto poco fa, Gianni, sto provando il Mubico, così mi hai detto. 5, ascolta a me, questo è una radio che hai preso adesso. Ascolta, è arrivata da verso Bonorva quella radio. E poi il prossimo viaggio le mandiamo all'Uranus, cioè con quest'altro amplificatore piccolino che è in corto, non lo so, io noto qualcosa sull'alimentazione delle valvole, ma lui già è più pratico e quindi sa quello che c'è da fare, dai. E anche che quello lì è nuovo e quindi lo mettiamo a posto. E poi pian pianino già le mandiamo altra roba oggi. Sì. Anzi, chi è? Ok, buonasera, sono Gigi, ciao Claudio. Valerio, Gianghiero, un consigliere che ti ha fatto fare. Ma vorrei chiedere un consiglio tecnico a Claudio. Possibile? Possibile, guarda. Ma il blocchetto della segna ce l'hai appresso? Allora poi se c'è il blocchetto della segna puoi chiedere un consiglio tecnico a Claudio, avanti. No, Valerio, buonasera, ben ascoltato, vieni avanti. Perché Dalghiero, insomma, Dalghiero, sì, mi facevo sentire, ma sempre dalla macchina. Ciao Flavio, senti un po', io siccome devo mettere l'antenna a casa, no? Sul tetto, devo mettere una mantova cinque, no, la mantova cinque non c'è più, la stavo cercando ma non riesco più a trovarla, devo mettere la mantova curva, no? E ascoltando un po' di ti ascolto Santiago 9, mi arrivi quanto mi arrivi dal Ghero, non ho problemi io da qua, poi vediamo se mi ascolti bene, perché quando ci spostiamo sul 45 con lui ci siamo questi tipi di radio, capito? Aspetta un attimino che apro, avevo la porta. No, non sono dal Ghero, sono qua da portatore, sempre Gigi, è da tanto che non si sente. Positivo, non è che entro sempre. Comunque io ho il cambio d'acciaio, se ti interessa sapere, sulla mantova turbo, perché gli ho messo quelli in nylon e me li aspettate un vento forte e l'ho fatto, una specie di uragano, come cavolo si chiama, che ha fatto danno anche mi pare nella zona di Alghero la volta, mi pare, non mi ricordo se Alghero c'era rifatto. E niente, allora gliel'ho cambiato, gli ho messi, che me lo procurate, dico la verità, me lo procurate di quei cavi in acciaio grossi, che sono grossi, sono cavi che erano un capannone della Fonte Fria, che stavano eliminando e facendo altri lavori, e allora me sono buscato un po' con i tiranti e gli ho messo questi cavi in acciaio grossi, grossi. E non penso che faccia nessuna interferenza, credo di no, perché io ce l'ho e l'ho messo così. No, siccome ho sentito che cambia il piano riflettente, ho detto, ma sicuramente darà fastidio l'antenna e allora non vorrei che succedesse cose del genere, ho detto, ma allora metterò qualche cavo, che so, qualche fatticino, metterò oppure qualcosa di nylon, a posto, ma ho detto, ma adesso puoi dire, se dentro sotto Claudio oppure qualche altro, aggiungo un po' la questione. Adesso sono curioso, non è andato a aprire la porta Claudio, stavo aspettando un'altra persona. No, ma lo sa forse Claudio che gli ho messi d'acciaio? Sono sicuro se li sa, perché quelli che abbiamo messo in nero abbiamo messi assieme, perché a me me l'ha montata Claudio. E ti dico una cosa, che io posso mettere quello che voglio, lineare quello che è, e in questo momento ce l'ho a 1,1 e stazionari, capito? Ce l'ho a 1,1 e staccate non si muove neanche l'ago. Allora se sento una cosa bene, sì, la mantova turbo me l'ha montata Claudio, è messa ed è un gioiello, per me va bene. Poi ti ripeto, noi l'abbiamo messo, ho comprato questo cavo in nylon, questi cavi, queste corde in nylon, come le vuoi chiamare, no? Come mi ha detto Claudio, però me le ha spezzate, due me le ha spezzate quel vetro, e allora prima di me, perché le staffe erano robuste per fortuna e ho tenuto, e allora gliel'ho messo in acciaio, ma non penso che faccia niente. ce l'ho e non penso che faccia, che dia nessun problema questi tiranti in acciaio, questi campi. Vediamo un po' se ha ripreso Claudio o se forse sta parlando con qualche un altro. No, c'è Fabrizio. Hola. C'è Fabrizio qua, mi ha portato una radio da consegnare. Oh, Valì, il problema è che i tiranti in fin di ferro, praticamente proprio ferro, non vanno bene sull'antenna. Ho dei cavettini d'acciaio che non hanno nessun problema, oppure del nylon, ma assolutamente negativo il fin di ferro. Ah, ecco, il fin di ferro no, e il cavetto d'acciaio sì. D'acciaio, quello lì costa, come si può prendere? Si può prendere. Ma sai quale cibo? L'hai presente nelle barche quel cavo che sembra che arrotola, che tira il gommone, l'hai visto? Un cavo del genere ci vuole. Ma così grosso, è esagerato. L'ho messo più grosso pure io. Adesso ho buscato morbido cavo. In questo capannone l'ho buscato morbido, di la verità, l'ho buscato e no, mi pare non me ne è rimasto qualche pezzo e non mi ricordo chi me l'ha preso, chi me l'ha chiesto quando l'ha visto, che me ne avevo portato un po' e me l'ha chiesto e gliel'ho dato. Ah, è una bella, poi vediamo un po' dove prenderlo. Mamma mia, è così grosso, un disco, è cosa, non devo mica pensare, un traliccio. Sono un paio di 6 metri, non penso che sia, vabbè, il vento, dopo il vento fa qualche altro. E come mai non va bene il fil di ferro? No, è la stessa cosa, Claudio. Ma te lo so dire, il fil di ferro, poi tanto si spezza, è rigido, una cosa rigida forse. Io ho buscato quello morbido, il capo, che c'ha una specie di corda in mezzo, non so se l'hai mai presente, l'hai mai visto quel tipo di capo, rimangono morbidi, d'acciaio e morbidi, c'è una cosa in mezzo rivestita di tipo corda, non so se ti è capitato mai di vederlo quel tipo di capo lì. Sì, ho capito quello che dicevo. Cintela, sì, della corda, proprio del genere. Ok, vabbè, vediamo un po' di trovare questo cavetto, va. Perché non serve per comprarlo. Cioè, no, l'inox no, perché quello costa. Sono stato fortunato e ho trovato quello in questo capannone, mi ho preso più o meno quello che mi serviva, me ne è rimasto e me l'hanno chiesto, te lo sto dicendo, me l'hanno chiesto perché ho trovato tutti i mossetti, quelli che stringono, hai capito? Tutto quanto, l'ho messo in tira a mano e poi ho messo i mossetti, hai capito? I mossetti ho stretto, hai capito? E li ho bloccati, hai capito? Però c'erano anche così a girare, a tirare, mi hai capito? Quei tiranti a girare c'erano pure, tutti quelli mi ho preso. Sì, va bene, vediamo di sistemare il tutto, perché io ho... Sì, l'antenna ce l'ho a casa, invece il tubo non si deve essere orizzontale, ce l'ho davanti alla finestra, capito? Sì, che a casa rimane senza, non ho già provato diverse volte, Claudio mi sente bassa, sì che ogni volta che dovevo parlare devo uscire in macchina, o andare in zone alte, che so, tipo scala piccata, oppure stare nella zona del posto, che è una zona aperta. Perché adesso ho deciso, ho chiesto anche permesso e me la farò mettere sul terrazzo, ho deciso, ecco, mettiamo la mandorla e non se ne parla più, almeno così vi sento chiaramente e così almeno posso anche discutere con voi. Hai già comprato o devi acquistare ancora? No, io stavo cercando la mandorla 5, no? Lo stavo cercando, ho girato 10, 15, 16 di voti da Fabrizio Italia e niente da fare, non l'ho trovata. Non l'ho trovata perché forse è uscita fuori produzione. Non c'è niente, non c'è da nessuna parte, ho trovato anche qua da Daniele, era tolto da, come si chiama, Grassi, da ho venuto qualche giorno fa. Voi ti posso arrivare una cosa, la mandorla 5 costa intorno ai 200 euro. Quanto? 200 euro, ma sei matto? Io la pago 130, non ho capito bene. Io ti dico che costa di meno, guarda, da Pesaro a Cagliari costa di meno, costa molto di meno, perché abbiamo preso addirittura 100 euro la manovra turbo da Pesaro a Cagliari. A Cagliari costava molto di meno, ce l'aveva a Pesaro lì a Cagliari, e la manovra 5 costava 98, allora costava 98-96 euro 3 anni fa, credo, 3 anni fa. E qualcosa in più costava quella, però l'aveva lasciata, c'era andato un amico mio, l'avevo mandato io, e gli aveva lasciata 100 euro la Mantova Turbo, capito? La Mantova Turbo, c'era anche la Mantova 5, però costava di meno ancora la Mantova 5. Andate a Cagliari, nella via state, non conosco nessuno, anzi, non conosco né proprio nessuno dei negozi o roba del genere, quindi vabbè, pazienza, dai. Oh Gigi, un attimo che c'è Fabrizio e poi riprendo. Sì, claro, già ho capito che c'è Fabrizio. Vabbè, vabbè, no, io non è che sto lì gira gira, capito? Io quando compro tanto, il mezzo di passate con questi 200 euro, 200 euro è troppo, non c'è una che compra, cioè, mi ha chiesto troppo, cioè, no, non ci posso minimamente. La compro per tutto io, esatto, mi era quello di me. E vabbè, vuol dire che se capita a Cagliari, che so, se uno di voi se va a Cagliari me la prende, no? Se te la sei già presa, quando ho capito, già ordinata. Sì, l'ho già ordinata. Ora cosa puoi prendere? Se l'hai già ordinata, se ce l'hai già in arrivo. Sì, ma vabbè, in caso che arriva qualche bufera, ma porta via. Ma che Massimiliano, guarda, da Mantova Turbo, no, ma ne aveva, non so se le aveva vendute, ma ne aveva tutte imbustate nuove, nuove, dentro la busta col prisi e tutto, attaccati, ne aveva diverse di antenne, e può essere che gli sia rimasta ancora qualcuna pure, a Massimiliano Bulldozer, qua vicino a Porrottone, se mi ha 8 km da dove sei tu adesso. No, io sto qua a Monte, già a Monteraggio. Dovevo informarmi prima, appunto queste cose dovevo chiudere prima di ricevere, e vabbè, pazienza, che si stanno, che va bene, insomma. Vabbè, comunque va bene, dai. Sta impegnato, va bene, ripeto, comunque... Vediamo di risolvere tutta la questione, se riusciamo a fare montare il tutto prossima settimana e così almeno. Ma tu dove sei? Ma cosa so? Perché mi arrivi, cioè, super forte. Non faccio solo la domenica, io attacco questi apparati di settimana, no, perché sennò disturbano il negozio, il supermercato. No, sono a Ottava, sono a Ottava. Siamo vicini, ma io sono un po' coperto qua dagli altri, sono circondato dagli altri, sì, sono un po' coperto, perché per la sua idea per carabiniare, per la gente, poi devo mettere in moto, e vabbè, sono certo, sono volte che mi senti bene, e ti ho scritto qua modificato, e tutto, ecco da una parte, ecco dall'altra. Questo l'attacco la domenica pomeriggio, rimane tutta la settimana fermo, però non sempre tutte le domeniche, ma quasi tutte le domeniche del dopo di pomeriggio l'attacco per farlo girare. Comunque è una curiosità mia, e tu sei vettura e qua siamo nei canali alti, ma che apparato stai operando, perché c'hai questi canali, vuol dire non è un apparatino normale. Appunto, non è un barattino normale, posso continuare a salire, oppure scende, quale frecce hai 5.008? Positivo, se è arrivato a questi canali, già andrà bene, va bene che bene. Chi è? Buongiorno, buonasera. Buonasera Luigi, un buongiorno, cosa vuoi sapere, la radio o il segnale? Sta girando bene Santiago Segre con picchi positivi 7 e mezzo, e la radio è perfetta, 5, perfetta. Allora va bene, dai. Buonasera, 5, radio 5 è abbastanza buona. Ho sentito io Claudio che parlava con Chiaramonti e io da Larghero non vi sento, non vi ascolto. Vabbè, adesso vedi che devo venire proprio in queste zone per ascoltarvi, riprendi. Come si chiama? Come, ma, di avverso, a volte. E me li ha tracciati due, me li ha tracciati proprio. E allora glielo ho messi d'acciaio, li ho trovato di quelli morbidi che sono rivestiti in mezzo di cose, sembra di corda, di coso. Quelli, li ho messi a quello lì e gliel'ho messo due mi pare gliel'ho messo, due o tre di quelli, no, forse due gliel'ho messo. Due, e non ci ho pensato, gliel'ho attaccato direttamente il cavo al palo io, Non ho messo nessuna cosa di protezione in gomma. No, può andare bene, non può andare bene, ci ascolta, poi rilancio il giorno di Chiaramonti. Ma il cavo d'acciaio che hai preso non è quello da traino, praticamente è quello che usano per i fili da stendere dei poggioli, quello lì è, che c'ha quel rivestimento in gomma, quella roba lì. No. Ho preso la tappanola, la funtevria, li stavano smantellando, sono cavetti abbastanza grossi pure. Morbidi, ma sono morbidi, ma sono grossi da un 8, come un cavo da 8 elettrico, da 10 forse pure. Un cavo da 10 elettrico, ce l'hai presente, 10, 12, una cosa del genere. Ma è morbido, quasi come una corda è morbido, hai capito? E non è rivestito di plastica di nulla, era un capannone, quei tiranti, quelli a vittare grossi, zingati, che giri, che avviti e tiri il capo, anche quelli ci hanno attaccato, tutto. Come tutto quello lì l'ho buscato, teneva il capannone, che tirava le capriate del capannone, tenevano in tira. Ah, addirittura con i tornichetti l'hai preso. Vabbè, dai. Gigi, devi stare molto attento perché in zona di temporale può attirare i fulmini, può fare qualcosa. È preferibile con calma, me lo dici, devi averti la mano, lo sai, non ci sono problemi. Prendi una matassa da 20 metri, 30 metri di nylon e facciamo il raccordo ad anello come gli altri, ma le mettiamo quel nylon marino un pochino più grosso e glielo sostituiamo il cavo d'acciaio, capito? Altrimenti va rivestito con della pompa leggera in modo che sia isolato. È sempre un pericolo, può andare bene come può andare male, tutto qua. Avanti Gianni di Chiaramonti, cambio. Anche tu ce l'hai in acciaio, ma rivestiti sono quelli da traino liberi. Minchia, tu sei anche molto in alto, Sei in alto come zona, capito? Come paese molto in alto, ed è sempre in zona tiro per i grandi temporali. È preferibile, non è che non vanno bene, però è preferibile isolarli, capito? Isolarli, quindi costerebbe un capitale, farli entrare magari se da 8 mm comprare una pompa di quella da 10, metterlo dentro, poi agganciarlo col cavallotto e tirarlo col tornichetto. Allora quelli sono lavori eterni che non tocchi mai più, capito? Però lasciandolo libero così è sempre un problema, può succedere qualche bassa frequenza così, qualche rientro di RF in bassa frequenza e gli fa corto sull'antenna e salta tutto in aria, capito? Ecco perché non si usa fil di ferro, materiali che possano attirare l'RF, sempre roba di nylon. Gava, e quanto ne hai messo Gigi tu di questi tiranti? Sono due, ma sono belli. Sono tipo, sai quelli che hanno nei carri delle barche, che tirano le barche, che arrotoli e tira, sono morbidi, di quel capo, di quella grossezza lì. Erano in questo capannone, stavo di moneta, ma dammelo un po', mi ha rotto quel vento, me l'ha rotto quel nylon. Muovi, cazzo, qua ci tocca il vento e l'ha rotto. Però adesso tu mi hai messo questo pallino in testa, io gli faccio qualche lavoretto, gli faccio una... qualche cosa faccio in bacchilitte, io me lo faccio in bacchilitte, tanto me lo trovo, me lo taglio in bacchilitte e me lo faccio in bacchilitte, tipo se pensarai dei grossi che ho fatto in bacchilitte, li taglio una striscia, li faccio i fori e lo attacco all'antenna, al palo dell'antenna e lo isolo così, e lo isolo, una volta isolato in bacchilitte, o clavie, che è duro, è un materiale duro la bacchilitte, e che lo isolo, non dovrebbe succedere niente, giusto? No, l'importante è che il cavo d'acciaio sia a contatto col tubo. Una volta che è isolato, quindi scarica sull'isolatore. Ecco perché si riflette con un pezzo di gomma, con una pompa, capito, si fa qualcosa del genere. Io l'avevo fatto degli anni passati quando qua le antenne erano molto alte e avevo usato il cavo d'acciaio, quello fine da, mi pare che era da 3 o da 4, e l'avevo entrato dentro una pompa di quelli del vino, mi, capito? Dentro una pompa del vino e poi agganciato l'antenna con il cavallotto e tirato col tornichetto. L'antenna era eterna, perché chi fa un lavoro del genere è eterna, però è meglio sempre isolarlo. Almeno il pezzo che è attaccato al tubo è sempre meglio isolarlo, perché lui se c'è qualche scarica elettrostatica non scarica sul tubo, l'antenna essendo a massa può creare dei problemi, capito? Tutto qua. Poi voglio fare una domanda a Gianni. Oh Valerio, riprendi? Hai visto, sì, cosa vuol dire? Bisogna sempre chiedere, tu invece no, a cavetto d'acciaio grossi? Esagerato, non dico io. Va bene, un plagio, va bene della cima, va bene, della tavola, diciamo, quelle che si usano in massa, diciamo da 5 mm, va bene? Sì, sì, esatto. Si può usare anche quella sagola lì, non ci guarda, io sono a 40 metri di altezza, ho le antenne molto basse perché non ho problemi per tirarle su, cosa me ne frega, però la mantova mi pare sia sui 6 metri, e allora ho detto, ma non si sa mai, ai 3 metri del tubo, anche se è un tubo da 4 pollici, quindi è grossissimo, poi è zancato a muro proprio murato, capito, non è di quelle staffe a tassello, e gli ho messo 3 tirantini, ma leggeri, ho usato la sagola quella da, mi pare che sia da 2,5, proprio fine, capito, giusto per darle una linea, niente di particolare, quindi va bene anche quella, se non da 2,5 la puoi usare da 6, da 8, ma non più grossa, non c'è nessun problema. C'è stata una parte del tuo senso, ma ho sentito che c'era il tuo Gigi che ti ha coperto. Ah, vabbè, va bene anche una fragola, diciamo, a 5 mm, l'altro, capito? Ah, vabbè. Allora, roba metallica non emettiamo, in caso di fulmini e roba del genere. Va bene, non emettiamo. Ok. Allora, senti, io devo fare pure sì, perché anche non sono a casa mia, c'è anche mia sorella che sta chiamando qua. Vi saluto. Claudio, con te ci sentiamo più avanti, ok? Prima di mettere l'antenna mi dai un controllo, così poi mi darai un altro controllo quando metterò l'antenna. Ci sentiremo più spesso, perché sicuramente uscirò anche più forte. Va bene? Vi saluto tutti. Riprendi, Claudio. Campa Valè, ti saluto, buon fine domenica se non ci dovessimo sentire più tardi, dai, comunque qua si arriva a Santiago 9, Radio 5, no, non ci sono problemi, ti ascolto anche magnificamente bene da Alghero, quindi no, non ci sono problemi. Ok, microfono per Gianni di Chiaramonti, per i saluti a Valerio, poi vai per Gigi Vulcano, avanti Gianni. Pensavo che eri in macchina fermo a aspettare, invece sei in casa di qualcuno lì a Monterrazzo. Va bene, dai, vai, dai, fatti un buon proseguo la serata, buon tutto, dai, ciao. Grano, sono sempre qui a Monterrazzo, sono a Monterrazzo qua. Qua a casa di mia sorella. Ok, vi ringrazio nuovamente, vi ringrazio anche, ringrazio soprattutto Claudio. Riprendi Claudio. Vale, non c'è nessun problema, dai. Salutissimi anche lì in famiglia, allora, quando hai necessità non ti creare problemi, io sono quello che mi hanno insegnato, io lo metto a disposizione di tutti, nessuno è nato imparato, quindi come diceva Gianni prima, ottima collaborazione, bisogna collaborare sempre con tutti, avere il massimo rispetto di chi ne sa un po' di meno o un po' di più, quindi a tua completa disposizione, vale, non ti preoccupare, vai Gigi! Positivo, dai, positivo, abbiamo già salutato. che è giusto, è vero, perché poi a parte io l'ho studiato, per la patente che ho dovuto studiare queste per queste per i fulmini l'ho studiato, ho dovuto studiare, siamo stati, ho fatto un corso e c'era ben che spiegato queste cose. Lì mi è sfuggito, adesso ci avrò pensato, però lì per lì non ci ho pensato che ho fatto questa cazzata e l'ho fatta veramente, però lo risolvo subito. Adesso è il buon tempo d'estate, io metto la scala, intanto ce l'ho portata di mano, salgo su, intanto ho quei pesalardi grandi, bianchi, che poi me le busco perché le busco in deposito, in bacchilite, che è un materiale abbastanza duro la bacchilite, e faccio il fuori col trappano larghi, gli metto il cavo col mossetto e gli faccio un adattatore, attaccarlo al palo. Cazzo, sono due cavi che ho messo, che sono più tranquilli, Claudia. Non c'è, da lì non si muove più. E gli faccio così me lo isolo, però stavo dicendo, c'è bisogno di isolarlo anche attaccato al muro o no? No, attaccato al muro no. Tanto parte già col tassello, c'è isolato. L'importante è la parte metallica, Gigi, non sia attaccata al tubo, perché lo sai che queste antenne lavorano cortocircuitate, quindi basta un piccolo rientro di RF che può scaricare sul tirante e automaticamente scarica sull'antenna, quindi è meglio isolarlo, capito? Tutto lì, poi per il resto non c'è nessun problema. Positivo, guarda, non ci ho pensato, guarda, veramente non ci ho pensato, l'ho isolato, non è successo qualcosa, adesso mi ricordo quanto tempo fa era, è successo quell'affare lì, come è successo quell'affare, mi ha aspettato, tu me ne hai troncato di quegli affari lì, di quelli in nylon che avevamo messi, infatti se tu vedi ce ne ho ancora un bene, ho fatto un filo da stendere lungo fuori, dal garage a là sotto, se l'hai visto, ne ho ancora quel filo, a stendere la roba non succede nulla, puoi attaccare la roba che vuoi e non succede niente, ma attaccato là come muove, tira e strappa, e solo dove c'erano gli occhiali e gli attrappati, capito, me l'ha rotto due quel vento forte. Per fortuna le staffe erano abbastanza robuste quelle che avevo messo, non ho buttato giù l'antenna, per fortuna. Positivo, no, beh, l'antenna come l'abbiamo montata non è chiave, non ti preoccupare. Non è che mi vanto di niente, ma antenne ne ho piazzato tantissimo e non ne sono mai cadute, no, non c'è problema. Anche qua, quando ne avevo tante, non è che erano molto alte, ma comunque non ho mai avuto problemi, Gianni di Chiaramonti, mentre tu invece li hai messi praticamente legati al palo, così è? Dicendo tu, capito? Senti, ora che mi stava chiedendo cosa mia moglie, dai, stava aveva detto l'acqua arriva domani. No, non arriva domani, dai. Dalle il tempo di caricare un po', è lunga la condotta, non è piccolo, dalle un po' il tempo di caricare, ci arriva, vedrai che arriva. Se gli ha dato la pressione che gli ho detto io, un chilo in più è tanto, dai. Anche se c'è la perdita, riesce a scavalcarla almeno per stasera, poi domani si metterà tutto a posto. Positivo. No, io già c'ho possibilità di farmi quel lavoro, Claudio. In Bacchilite ce l'ho, e ha voglia che c'ho la possibilità. Come? E come? Già in deposito c'è qualche pezzo grosso, enorme, trisce da quadrate da 4 centimetri, guarda, quadrate da 4 centimetri, lunghe una 20 centimetri, ho messo già qualche pezzo buttato per terra, io quello lo taglio, gli faccio due fori, hai capito, due fori e l'entro lì dentro, il coso, i mossetti ce li ho già, e le tolgo quelle che ci sono, tolgo i mossetti e niente, e lo blocco lì, e lo faccio isolare così. Così sono più tranquillo. Sì, o gli faccio una fascetta attaccata al tubo, gli metto una fascetta e gliela applico lì di qualche maniera. Sì, l'importante non le fai toccare il cavo diretto al tubo, vai. Puoi anche sganciarlo lì il cavo, Gigi, senza fare molto casino, e le metti un pezzettino di pompa. E poi glielo rigiri e lo riagganci, non è che non succede niente. L'importante è che il cavo non sia attaccato diretto al tubo dell'antenna, perché l'antenna è cortocircuitata e può essere pericolosa. Tutto qua. Sì, ho capito. No, ma io gli faccio quel lavoro lì in Bacchilite che glielo posso fare. Lo posso fare benissimo, posso farlo in pompa, che ne ho pompa e ne ho tubi di quella impressione, però lì c'è il cavo del coso. Ne ho, però no, glielo faccio direttamente in Bacchilite. Lo isolo, gli faccio l'isolatore e glielo faccio. Glielo faccio direttamente, Claudia. No, mi hai messo in cose, poi controllo gli altri, al limite, tanto me lo sono messo da parte io qualche altro cavo di quello lì, me l'ho lasciato. Se sono a posto gli altri, se no gli metto anche gli altri, gli aggiungo anche un altro al posto di quelli in nylon, capito? E puoi anche rinforzarlo, sì, come ho fatto io, dai. Non ci sono problemi, puoi anche fare così, va molto bene. Gava, va bene, che tempo fa lì a Chiaramonte, Gianni, per domani? Piovuto c'è oggi? Monti, devo scendere giù all'impianto. Non le tiro piedi quella zona, non le tiro piedi, non vuole cambiare il tempo. C'è nessun problema, la tonalità è buona e va bene, l'effetto ecco è giusto, vai. Ce ne sono altri che escono tutti metallici e brutti, questo è regolato bene, va benissimo. Io devo scendere un attimino in garage, quella volta che scendo in garage in vettura ho fatto un lavoro, ci te lo faccio sentire prima di risalire qua, tanto che scendo in garage a prendere una cosa a volo. E te la accendo e faccio sentire una cosa che ho fatto in vettura. Giustamente non c'è così forte perché in vettura. A vedere poi mi dai un parere se va bene o va male. Ma mi dire che ci hai messo la cameretta, no? La ce l'ho qua. Questa qual è la camera eco? Oh, quella ce l'ho qua su, no, è attaccato nell'altro apparato, è l'altro, però ce ne ho messo un'altra ancora, quella mia l'ho messa nel baracchino che ho fatto un piccolo impianto in vettura, e poi mi dice se va bene o se va male. Vai, già siamo qua, vai. Avanti Gianni. Sì, sono sempre quelli da fare, piccolari. anch'io mi trovo molto bene con quelli della base. Modulo qua con la RAN 48 sul 45 anche per farlo girare un po', dai. Però come baracchini a me piacciono molto quelli della base perché hanno più affidabilità a me. Yeah. ho guadagnato 48. Diciamo che ci assomiglia un pochino, dai, ma non è esattamente così, comunque non è male come modulazione. Dai, Claudio, non sono di qua, dai, prendo una commissione velocemente da garage e riprendo da su, dai. Io positivo, dai, sono qua in agguato, non ci stanno problemi, cap. Abbiamo attaccato la cameretta adesso. Va bene, va bene. Hola. Hola, hola, com'è questo eco? Sì, va bene, va bene. Non ci sono problemi, Fabrizio. Aspetta che cambio, vai. Passo con l'altra radio. Eccomi qua. Guarda Bubba, Guarda Bubba. Piace troppo, però altra Bubba. Purtroppo. Piazza spaccatura. Se te l'alzio te lo faccio vedere quel collaglio, non lo facevo sentire un attimino, è differente quando alzavo. Alpino, se uno c'è un baracchino normale non ti ascolta. Sei tutto 140 con l'MC80, aspetta che lo abbasso, lo metti lingua. Ora, così l'ho abbassato un pochino, vedi qua. No, ma è perfetto, non è che ha cambiato molto, va bene, non ce lo vuoi dire, purtroppo se già era forse un po' troppo, ma andava bene. C'è questo baracchinetto qua, compagno. Questo 140 con MC80 e poi ce l'ho sotto la C, mai ho usato 140 sotto la C, mai, ce l'ho proprio sotto la C di chi se lo fa sempre a manetta. Io ho 85 e un po' di più 85 secondo me, 60 ascolta la radio, la trovi un po' bassa, posso aumentare poco? Se tu dici no, questo è l'80, non il 60, questo è l'MC80 che avevo comprato alla mia, che ce l'ho collegato al 140. Ho capito, infatti te l'ho detto, io ho 85 che praticamente scuso il compressore che non uso, e poi alla fine lo stesso microfono, e mi dà l'impressione se lo collego comunque mi deve abbassare un po' di più, eh. Non c'è problema. Fabi, se ti sto dicendo che ho sentito il boom, più che il condensatore è un po' per scoppiato lì, se te lo metto mi ha mandato in corso del metatore. Ma più, ma cioè, voglio dire, c'è un coso scoppiato, provasco, non scoppiato, cioè, ma non lo butto perché te lo faccio vedere, serve un botto solo di pistola, te lo devo far vedere, certo, perché non l'avevo mai visto in tutte le volte che ho fatto queste cose qua, è esploso, completamente pulito, non è stato neanche attaccato, ma non è questione di corto qua, boh, è una cosa incredibile. Anche qua bisogna vedere se poi è successo altro, però questo qua proprio esplode, tutta la carta dentro c'era. Allora Fabri, te lo sto dicendo, mi hanno dato una radio da provare che non accendeva, gli ho attaccato l'alimentazione, la radio faceva agito burro, ha fatto per qualche minuto, boom, e ho sentito il botto dell'alimentatore, basta, non ho fatto altro, va. Assolutamente, perché l'alimentatore stava funzionando, tra l'altro c'era il 950 attaccato, c'era il 271 della ICOM, capito? E quindi ho staccato subito, ho riattaccato i collegamenti ad un altro alimentatore, le radio non hanno subito nessun niente, e quindi non lo so, però il botto l'ho sentito abbastanza forte, sembrava una pistolata. Ti ho visto, cacchio, tanto che botto ha fatto? Sì, no, il fotono, intanto mi ha fatto che c'era in prova, no, il botto, cioè, guarda, non lo voglio buttare, perché sennò quello perdo, l'ho buttato e l'ho recuperato, lo devo far vedere cosa è successo, è una cosa, guarda, aspetta, si trova un pezzetto di nastro, lo nastro direttamente attaccato sulla custodia, perché è una cosa che non viene bene a dire, da vedere, è spettacolare, sembra un bosso di pistola, pulito pulito mi è venuto, ho fatto difficoltà anche a prendere il valore, e toccavo di cose, però l'ho detto qui perché da vedere. Non mi dare colpi a me, perché io non ho fatto niente. È proprio a causa di quella radio che mi ha mandato in corto l'alimentatore sicuramente. Cosa vuol dire di Fabri? Non so cosa dirti, Kate. Va bene. Comunque, beh, ce l'hai, cos'è? Un condensatore normale, qualcosa di diverso, cos'è? Ma il condensatore normale, non è solo condensatore, dovrebbe essere 470 quando ho capito, microfare le 25 volt. Quindi già si trova, non è un problema, quindi si piazza con lui e si mette, ma non credo che abbia fatto altro danno, perché il botto era quello, si è spento, quindi sicuramente quello lì, beh, non credo ci siano altri problemi. No, io strano che non accendere, che quello non dovrebbe accendere, boh, adesso ho controllo un po' di tensione, vediamo un po'. Ascolta, cosa ti volevo dire, oltre a questo botto che ha fatto, niente, ha fatto sto, ma questo dovesse funzionare, ma questo cavolo di ventolina fa cambio. La ventolina? Era un bel rumorosa quella ventolina che c'era, e che dopo cosa c'è lì? Non ti ho capito. Se non ha problemi grossi, che sono quel, perché come finale a occhio così mi sembrano che non siano partiti, per esempio, però male si smonta, si compra un qualcosa, sembrerebbe di no. Se quello la ventola, se la trovo così piccolina, te la prendo la ventola così piccolina. Sì, prima dovrei vedere anch'io, mi devo guardare. Sì, già prendi la fabbrica, la magazzata. Sì, non è troppo se non è che aspetta, intanto quelli sono un giocattolo per te, non c'è problema, no? E mi piace questo legnare, secondo me c'è qualcosa, sono punteggiate male, perché ho aperto il 131 e l'alimentazione della musica non arriva così, e vale clama, mi ci ha fatticciato qualcuno sicuramente. Se così io posso, giusto, controllare se trovo lo schema, perché il mio problema è che le valvole, è proprio che non ho quando sono qua, questo se poi sono anche lavoretto, a proposito, fare quella ed è un pulito, se no posso solo ascoltare, vabbè, magari ascolti, però non puoi intervenire ogni tanto, sai, se lo vedi. Ecco, di più. Ma non lo sto usando anche quando anche normalmente mi viene più comodo una volta a cooperare, lo sai. Viene più comodo, sì, ci mancherebbe altro. È una grande comunità. Gigi Volcacci, sì. Da Gigi si è spostato un attimo, produce un filo di corrente. Sì, anch'io forse c'è uno, anzi io nemmeno. Cosa ti volevo dire? Coraggio io qua, perché ti volevo, stavo dicendo, vado un cavo fuori. Ieri sera, quando ho spento tutto, ho staccato tutto, ma non sei le scariche che mi stavano arrivando? Sì, anche io mi sto abituando a fare così, la stessa cosa. No, perché dici, facevo 7-8 stavano iniziando ad arrivare. Sì, con le scariche, poi questi attacchi sembra che ti avvertano, capito? Sembra che ti avvertano, c'è sempre qualche problema. Infatti non sta fatta, ho detto mamma mia, stacca tutto. Ho finito di chiacchierare con Grover che c'era sulla metropolitana e poi ho spento tutto. E un po' spaventato, la verità. Dovevo queste scariche, 8-9, dico. No, io poi ieri sera, non lo so, che mi ha cercato, mi ha detto Giuseppe, tornare. Poi ieri sera siamo usciti e basta, cioè, la stima a casa, ho bisogno di staccare un po', sono andato al bere a fare una passeggiata, poi sono andato a trovare mia sorella, ci ho mangiato una pizza, adesso che tratto lo so con loro, sono andato a notte a casa, anche la vita stavo lavorando, quindi... E poi ci faccio passare chiuso in quella stanza lì, e quindi siamo usciti. Oggi, stamattina, sono uscito a prendere un caffè, non ho trovato lo stesso Giuseppe, ci abbiamo preso un caffè assieme, due chiacchiere, e poi sono rientrato a casa. Mi sono voluto la giovane lo stesso, ormai ce l'ho lì, ho messo il pigiama e buttato qua dentro, proprio al pascolo brato. Ho visto, io di tanto non ci riesco a stare. Andare a casa? No, io ho necessità di uscire, ogni tanto a me la casa non piace, mi fa un pochettino, poi a me mi uccide, non so perché, non so proprio. E forse perché io uscivo anche troppo, quando giù gli attaschi verso il principio, adesso quando sono qua... Mi sono completamente ritirato fra lì, sono sempre a casa, rinchiuso, mi ha rotto le palle, capito? Però è così, non voglio darla. No vabbè, ma io me ne sono sorrentato, non voglio andare a mamma, non ci sono passato anche in macchina sua, e sono tutto qua, non ho voglia di andare lì, quel povero, perché sono stamane al lavoro, la verità, sono tutto fermo, quindi non è che avevo grossi problemi. Però sono stanco, cioè sono stanco, non so perché. Vabbè, vai a 10, eh.